Dispiace molto perché comunque quando esci da una manifestazione con i rigori è sempre brutto, però guardiamo in positivo e nella nostra storia qualche volta ci ha dato anche qualche soddisfazione ai rigori. Noi col mister abbiamo fatto un grandissimo lavoro, siamo stati, non era semplice dopo aver vinto un mondiale dare stimoli a una squadra, a dei giocatori, ricompattare un gruppo che comunque era cambiato tanto, e lui è stato bravo, l'ha dimostrato anche qui all'Europeo, ci siamo qualificati ai quarti e purtroppo andiamo a casa per i rigori, quindi io penso che il lavoro del mister è stato ottimo e io non faccio le scelte, però comunque abbiamo un buonissimo rapporto con l'allenatore. Io penso che gli italiani sanno che questa è una squadra che ha sempre dato tutto. E torniamo a casa consapevoli che comunque non ci dobbiamo recriminare nulla e che adesso dobbiamo guardare avanti perché già dal mese prossimo inizieranno le qualificazioni mondiali.